relativamente invece alla risoluzione che io ho presentato, peraltro con la firma di tutti i miei colleghi di partito e, voglio ricordarlo, con un voto all'unanimità di tutti i consiglieri indipendentemente dai partiti. Questo è molto bello che lei lo dica. E questa cosa ci dice che questa è una politica che può essere di grande respiro, qualcosa certo, che esce dalle polemiche, dai contrasti, dai conflitti quotidiani, perché questa è una preoccupazione che tutti come cittadini, prima ancora che come politici, dobbiamo avere. Ecco, mi dica una cosa, Carini, da 1 a 1000 quante probabilità avete che il ministro dell'Interno Roberto Maroni e tutto il governo ovviamente vi sentano anche soltanto magari da una parte minima dell'orecchio, destro o sinistro è uguale? Ma io mi stupirei che non fosse 1000, mi stupirei tanto che non fosse 1000, certo, perché in realtà, noi stiamo dicendo che le prefetture, i comuni, gli enti locali vari ci chiedono di poter disporre di uno strumento formidabile operativo che è l'agenzia operativa della DIA, in quanto oggi com'è che funziona? Ogni qualvolta ce ne sia bisogno, noi siamo costretti, come tante altre regioni, a ricorrere a un'agenzia che ha sedi operative in altre regioni. Sì. Spesso queste regioni sono già oberate. Assolutamente, per voi credo che sia la Toscana, Firenze. Esatto, per noi è la Toscana, a volte addirittura interagiamo con regioni ancora più lontane, perché magari sono collegate in ordine alla provenienza del fenomeno mafioso, quindi magari con regioni del sud Italia, quindi con tutta la complessità e anche l'inefficacia obbligata che questo fenomeno produce.